L'osservatorio è stato aperto 14 anni fa, dopo la tragedia della ThyssenKrupp di Torino. Quest'anno è l'anno, se vado a vedere, a ritroso, dove abbiamo avuto più morti sul lavoro da quell'anno. Ma in questi 14 anni i morti sul lavoro sono sempre aumentati. Quest'anno a che numeri siamo arrivati? Abbiamo già superato complessivamente i 1100 morti, compresi i lavoratori morti in itinere sulle strade. Sui luoghi di lavoro, quelli che muoiono proprio lavorando, sono 530. 35 in questo momento. Una strage silenziosa, una guerra. C'è una guerra dimenticata da tutti, dalla politica, dalle istituzioni. La situazione quindi sembrerebbe peggiorata, forse a causa della ripresa dopo il Covid. Ma no, perché tantissimi lavoratori muoiono in nero e quindi questi non li registra nessuno, solo noi li registriamo. Non c'è nessun altro INAIL, monitora solo i propri assicurati, non è un monitoraggio, ma sono solo le denunce che gli arrivano dal territorio. Tantissime categorie non sono assicurati all'INAIL, sono morti già per esempio già 134 agricoltori schiacciati da trattore, tanto per dire di cosa stiamo parlando. Ecco, ci sono tantissime categorie, moltissime partite IVA non sono assicurate all'INAIL, quindi questi spariscono da qualsiasi monitoraggio. Ecco. Come mai c'è stato questo aumento rispetto agli anni scorsi? Quindi lei ha detto rispetto al dal 2008, da quando ho aperto l'osservatorio, c'è stato questo aumento. Quest'anno abbiamo registrato un numero maggiore di morti sul lavoro. Come mai, secondo lei? È un numero costante in aumento ogni anno. Solo un anno c'è stata una lieve regressione. Tutti gli anni sono aumentati. Certo, non si può poi regolare col 2020 perché c'è stato praticamente un fermo di diversi mesi dei lavoratori, dell'industria, di tutti i servizi. C'è stato un fermo. Però l'aumento è costante. Non c'è nessun fatto nuovo. Quest'anno stanno aumentando come sono aumentati anno per anno i morti sul lavoro, perché c'è scarsa sicurezza, non c'è interesse da parte delle istituzioni, della politica verso queste tragedie, perché solo in questi giorni i media stanno interessandosi dei morti sul lavoro. Ci sono stati giorni dove ci sono stati anche 10 morti sui luoghi di lavoro, ecco, è una costante, ecco. Come mai questa curva continua a salire in modo costante senza che si riporti il livello più in basso, che si cerchi di fermare? I motivi sono tanti, principalmente quelli dei lavori in appalto, dati a piccole aziende oppure a artigiani, dove danno il lavoro a chi fa il prezzo più basso, quindi con fretta a scapito della sicurezza, sia per la fretta e sia per l'equipaggiamento che deve avere un lavoratore. Praticamente è diventato una giungla selvaggia, si è inselvatichito tutto, è diventato tutto più precario il lavoro, quindi muoiono tantissimi lavoratori precari, perché sono ricattabili, non possono rifiutarsi di svolgere lavori pericolosi per il semplice fatto che la volta che dicono ma qui è pericoloso andare qua sopra si trovano licenziati senza nessuna tutela. Purtroppo è così. Diciamo, uno dei fattori fondamentali di questa tragedia silenziosa è la precarietà e quindi probabilmente la crisi economica dovuta al Covid e l'aumento della precarietà dovuta a questa emergenza pandemica probabilmente favorirà negli anni futuri purtroppo un aumento di queste morti. Fuori di dubbio, per il semplice fatto che se guardiamo le statistiche del lavoro sembra che ci sia stato un aumento dei lavoratori, ci sia tutto un aumento, la disoccupazione è calata, in realtà sono tutti lavori precari, un mese, due mesi, massimo un anno, e quindi questi lavoratori qui lavorano in condizioni ricattabili in ogni momento. E poi ci aggiungiamo i prezzi sempre più bassi, sempre più tirati per chi vince il lavoro a gara in appalto, ci ritroviamo in questa situazione.